La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'economista Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica Italiana. La Fondazione Einaudi ha appena pubblicato un CD-ROM dal titolo Luigi Einaudi, guida alla lettura, antologia degli scritti, che raccoglie una serie di articoli pubblicati sul Corriere della Sera in cui Einaudi precisava la sua idea di Stato liberale. Ma ora la parola va a Dino Pesole. La vera novità del fascismo non è di voler creare uno Stato basato sulle corporazioni, ma nell'assicurare a taluni sindacati o corporazioni il monopolio legale sancito dallo Stato dell'organizzazione politica e nell'imporre dall'alto e con la forza la sua verità. A sostenere questa tesi è Luigi Einaudi, futuro governatore della Banca d'Italia, futuro presidente della Repubblica. È il 16 agosto del 1924. Con notevole preveggenza e capacità analitica, Luigi Einaudi, attraverso una serie di articoli pubblicati sul Corriere della Sera, precisa la sua idea di Stato liberale. Scritti di notevole attualità, che vengono ora raccolti in un CD-ROM dal titolo Luigi Einaudi, guida alla lettura, antologia degli scritti, curato dalla Fondazione Einaudi. Dopo il delitto Matteotti e il cosiddetto Aventino delle opposizioni, come sappiamo, il regime fascista volta decisamente pagina e mostra il suo vero volto. Il famosissimo discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio del 1925 è la svolta verso la soppressione delle libertà e l'instaurazione della dittatura. Einaudi lo aveva per molti versi previsto pochi mesi prima. Il sistema fascista mira a cristallizzare il potere in mano a quel gruppo di conquistatori che nel momento della sua formazione avessero saputo mettere le mani sugli organismi corporativi chiamati a fornire gli uomini di governo. Tolta di mezzo l'opinione pubblica, distratte le menti dalla discussione dei grandi problemi nazionali, concentrati gli sforzi degli individui nella difesa dei propri interessi di gruppo contro i gruppi concorrenti al saccheggio dello Stato e contro le minacce dell'insorgere di nuove forze selvagge non classificate, gli uomini via via si avvilirebbero alla condizione di mendicanti. Lo Stato avrebbe l'apparenza di forte, perché i capi distributori facilmente otterrebbero l'omaggio dei dipendenti. Colosso dai piedi di Creta, che le mutazioni incessanti dell'organismo sociale, gli spostamenti continui delle forze economiche e sociali, lo renderebbero ben presto anacronistico. La lotta fra i privilegiati intesi a tenere per sé il potere, fonte di ricchezza, e i diseredati, ansiosi di conquistare una posizione legale corrispondente alle proprie virtù, fatalmente condurrebbe a una rivoluzione distruggitrice di così detestabile ordinamento statale. Due anni prima, l'8 agosto del 1922, Einaudi aveva consegnato questo articolo al Corriere della Sera. Lo si può definire quasi come una sorta di manifesto del pensiero liberale contro le debolezze della classe politica che guidava il paese e le connivenze con il fascismo, tutti elementi che prepararono l'ascesa di Mussolini. Lo spettacolo di incapacità offerto dal Parlamento e dal governo, le agitazioni continue, la guerriglia civile fra partiti e organizzazioni armate hanno avuto, fra gli altri disgraziati effetti, quello di aver reso popolare in una parte notevole dell'opinione pubblica una parola: dittatura. Si parla da molti oggi della dittatura come della sola via di salvezza dal disordine e dalla crisi profonda che attraversiamo. Gli uomini, ai mali di cui soffrono, vogliono trovare un rimedio semplice, preciso, definitivo. Il governo dei molti, il governo dei partiti, il governo dei chiacchieroni e degli ambiziosi di Montecitorio appare una cosa talmente disgustevole, vana, impotente, che a poco l'idea della dittatura ha finito per perdere quella nebbia di terrore e di tirannia da cui era circondata. Si crede che l'uomo forte, che l'uomo sapiente saprà trarre il paese dall'orlo della rovina. L'unica garanzia di salvezza contro l'errore, contro il disastro, non è la dittatura, è la discussione, spiega Einaudi. Non siamo degli adoratori del regime parlamentare e dei tipi di governo che escono dai parlamenti, ma diciamo che essi sono il minore dei mali possibili perché consentono appunto la discussione. La verità non è mai sicura di se stessa, se non in quanto permette al principio opposto di contrastarla e di cercare di dimostrarne il vizio. In un regime corporativo, dove mai si nasconderà l'opinione pubblica? È pensabile che ci sia un'opinione pubblica dei cotonieri, dei facchini dei porti, dei ferrovieri, dei professori d'università, degli artisti? Ma tutti questi sarebbero piccoli interessi complottanti per procacciare a sé benefici privati ai danni della collettività. Uno Stato siffatto potrà esprimere una ben meschina classe politica di oscuri professionisti in confronto alla ricca gamma di valori umani che possono essere il risultato del regime di discussione. Eppure si osa dire che questo ludibrio di Stato agirà in virtù di quell'idea che il consunto Stato liberale più non possiede. L'insegnamento di Einaudi è un costante punto di riferimento per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Questo è un passaggio del discorso che ha tenuto in occasione dell'anniversario dei 50 anni dalla scomparsa dello statista. Einaudi è stato il primo a plasmare questa istituzione, esercitando poteri, difendendo prerogative e nello stesso tempo segnando distinzioni, ponendo dunque i limiti anche ai propri interventi. Naturalmente ciascuno porta nell'incarico cui è chiamato, anche il più alto, la sua vocazione e la sua storia personale. Nel caso di Luigi Einaudi, la cifra singolare di un grande studioso animato dal gusto della concretezza, dell'applicazione minuziosa a fatti e problemi ben individuati. Fu questo lo spirito con cui egli si dedicò in particolare all'esercizio del potere di rinviare leggi alle Camere, invitandole ad una nuova deliberazione prima di promulgarle, e si applicò all'esame puntuale di un'ampia e varia gamma di temi in discussione e di provvedimenti in itinere. Lo fece sempre con discrezione e misura. L'omaggio che con questi brevi cenni ho voluto rivolgere all'esempio e alla eredità di Einaudi Presidente non può che rinviare all'alto profilo civile e morale che segnò la sua analisi della società e ogni suo impegno pubblico in un lungo, operoso e coerente percorso di vita. Abbiamo in linea il professor Giovanni Orsina, direttore scientifico della Fondazione Einaudi, docente di storia contemporanea alla LUIS. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, ci spieghi un po' più da vicino il senso di questa vostra importante iniziativa e anche delle iniziative che comunque avete in cantiere già per quest'anno. So che state immaginando altre cose da sottoporci. Naturalmente la Fondazione Einaudi di Roma, per ovvie ragioni, è impegnata da tempo nella valorizzazione della figura, dell'opera e del pensiero di Luigi Einaudi. È nostro dovere statutario, ovviamente, insieme ad altri doveri statutari, naturalmente. La Fondazione ha organizzato negli scorsi anni varie mostre, più importante del quale il Palazzo del Quirinale, su Luigi Einaudi, e adesso in quest'ultima fase stiamo lavorando a una valorizzazione degli scritti. Einaudi ha scritto moltissimo, era molto chiaro, scriveva una bellissima prosa italiana e scriveva delle cose, uso diciamo appositamente il termine più modesto, cioè di grandissimo buonsenso, delle cose al di là di tutto, che insomma di quel buonsenso del quale probabilmente oggi l'Italia avrebbe più bisogno. Sì. E quindi abbiamo deciso appunto di valorizzare e di ripubblicare queste opere che in molti casi sono assai difficili invece da reperire. Il prodotto specifico che abbiamo pronto è un CD-ROM nel quale è contenuta una guida alla lettura di Einaudi strutturata in 8 capitoli scritti da 8 specialisti di Einaudi. E a ciascun capitolo, sono brevi capitoli fortemente suddivisi in paragrafi, quindi con l'idea di rendere la lettura molto semplice, a ciascun paragrafo è legata una sezione antologica e a ciascuna sezione antologica è legata un'ulteriore sezione antologica più ampia di approfondimento. Sì. Per rendere più semplice la cosa, sostanzialmente abbiamo pensato a mettere a disposizione del pubblico una torta a tre strati. Mm-hmm. Un primo strato molto semplice, per chi voglia rapidamente sapere cosa pensava Einaudi sul fascismo, sull'Italia repubblicana, sul liberalismo, sull'economia, eccetera. Un secondo strato per chi a questa prima presentazione voglia legare una lettura degli scritti einaudiani, ma non abbia troppo tempo e quindi voglia leggere poche pagine ma scritte direttamente da Einaudi, e un terzo strato per chi invece abbia più tempo e più voglia di approfondire, si troverà a quel punto svariate decine di pagine di Einaudi da leggere su quell'argomento, che è appunto un paragrafo all'interno di un capitolo, quindi con la possibilità anche di andare molto in dettaglio sugli argomenti. Quindi un viaggio, diciamo, a tutto tondo nel pensiero di Luigi Einaudi. Noi abbiamo scelto alcuni scritti che ci sono sembrati interessanti e molto preveggenti degli anni 20, ma c'è solo l'imbarazzo della scelta, devo dire, leggendo e scorrendo questo patrimonio anche di documenti. Ma a questo proposito colpisce molto questa interpretazione, questa lettura di Einaudi negli anni 20 dell'uomo forte, cioè, come dire, nei momenti di crisi, lo dice un liberale doc come era Einaudi, si ha un po' la sensazione che se ne può uscire solo attraverso una figura forte, no? E questo direi che è un insegnamento da tenere ben presente. Naturalmente lui lo vedeva questo come, cioè lui ne spiegava la ragione storica, allo stesso tempo era contrario, perché per lui invece il problema è il problema di conservare aperto il regime della discussione, quindi la verità non è mai sicura di se stessa, la verità si trova discutendo, ma questo è un classico tema liberale. Einaudi ovviamente era un grandissimo liberale, ed era un liberale come i liberali andrebbero intesi, cioè un liberale che era molto attento alle istituzioni che costruiscono la libertà e molto attento all'aspetto etico che fonda la libertà. E lì il problema è che nel momento in cui il regime di libertà degenera in un regime di guerra civile, a quel punto esce l'uomo forte. Perché di fronte alla guerra civile i cittadini, a loro modo ragionevolmente, dicono qualunque cosa è preferibile, certo, a questo caos. E questo aspetto etico lo ritroviamo interamente poi nelle esperienze istituzionali di Einaudi, sia da governatore della Banca d'Italia, nel suo rigore nella gestione anche delle grandi crisi della finanza pubblica, e anche nella sua esperienza al Quirinale. Assolutamente, lì c'è un discorso, diciamo, di moralità personale che in Einaudi era fortissimo, insomma, il celebre aneddoto della mezza pera, sì. Questo diciamo tanto per prendere un caso, ma in generale, insomma, no, l'aspetto che io sottolineavo è il fatto che il liberalismo non è semplicemente un meccanismo privo di anima e non è semplicemente un arricchitevi, cioè un'esortazione al badare agli interessi personali, ma un liberalismo correttamente inteso prevede che gli individui si comportino in maniera morale, quindi che non pensino soltanto al proprio tornaconto, ma siano in grado di conciliare il proprio tornaconto con l'interesse generale. Grazie professor Orsini, buona serata. Grazie a voi, buona serata.